Salve, ancora NM in radio questa domenica per una nuova puntata di One Tree Boots One Tree. Quest'oggi farò una diretta in solitaria, visto che il mio compare Gramenco è latitante. In qualsiasi parte del mondo sei, Gramenco, un grande dito medio alzato per te. E scusate il ritardo, ma ho avuto dei piccoli problemi tecnici nell'iniziare questa puntata. Bene, oggi parleremo di faremo un excursus del concerto che c'è stato venerdì ex Emerson, organizzata dalla Smash Sound Collective, che ha visto sul palco i gruppo dei Rec Off, i Mad, lo Sdegno, i Plankton e gli Ignoranti. Sarà una puntata ricca di interviste. Infatti abbiamo intervistato sia i Rec Off che i Mad, due interviste molto molto a mio avviso interessanti. Bene, e iniziamo subito la puntata lasciando la parola ai Rec Off e all'intervista che abbiamo fatto. Quindi l'intervista Rec Off su Radio Wombat, One Tree Boots, One Two. Raccontateci come vi siete conosciuti e cosa vi ha spinto a formare questo progetto, visto che tutti voi facciate già parte di numerose altre band. Vai. Allora, il gruppo, il progetto principalmente nasce da quasi casualmente da una telefonata con quello che è il primo cantante, con il quale avevamo un progetto, ciao Straccio, con il quale avevamo un progetto io, lui e Banfio, l'attuale cantante, che si chiamava Race from the Agony, dal 2007 fino al 2011. Quindi in questa telefonata che c'è stata intorno a 2 anni fa, così cazzeggiando, abbiamo detto facciamoci un gruppo io e Banfio come vecchi tempi, e allora così, quasi per scherzo, abbiamo detto sì, facciamo sta cazzata. Poi abbiamo fatto una prova, ne abbiamo fatte due, abbiamo visto che funzionava e abbiamo messo su la band ufficialmente. Con Edoardo, che era un altro nostro vecchio amico, e lì ci fu la prima line-up dei Rec Off. Il 1 dicembre è uscito per la CBC Records il vostro ultimo lavoro, Feeding the Fake. Presentateci il vostro ultimo lavoro ed inoltre cosa state facendo per promuoverlo? Vai, no, non devi farlo, Banfio. Banfio, presentate il vostro ultimo lavoro. Allora, diciamo che rispetto alla precedente demo, sembra un cellulare. Ok. Allora, l'ultimo lavoro, sia diciamo il secondo, che rispetto alla precedente demo, vede una lineup nuova. Quindi cambio di voce, subentro io alla voce, prima suonavo il basso nel precedente lavoro, e anche la sonorità del disco è cambiata. È un po' più duro rispetto al lavoro precedente e è uscito il 1 dicembre. Appunto per la CBC Records. Dì qualcosa, come ho già detto. Dì qualcosa riguardante il fatto dei testi che al contrario adorano Satana. I testi adorano Satana, però non, comunque non parlano male di Gesù al contempo. Per rispetto. Per rispetto. È la capra che portiamo in giro, okay, spesso nel merchandising. La capra è... Educata, ma è viva o morta? È viva e domestica? Vivissima. Giustamente. Si chiama Marco. Sta a casa mia, sta benissimo. È da guardia. Non è stata maltrattata. Perfetto. Fading the Face è l'ultimo, no? Però voi avete fatto già una cassetta prima. Esatto. Che c'ho un nome che a me ispira tantissimo. In 2016. Sì. Prima cosa. Mi potete presentare quest'altro ascolto e poi lasciatemi una curiosità. Che significa, cioè, e per quale ragione avete intitolato questa cassetta In 2016? Perché fondamentalmente a tutti non ci piaceva fare un'uscita self-titled, cioè quindi con il nome del gruppo, e abbiamo cercato di dargli un nome che al momento non ci veniva. E ci piaceva comunque appunto dargli un nome e dire che quelli là eravamo noi nel 2016. Perché infatti poi nel 2017 siamo un po' cambiati. Cioè, giustamente avete scelto un altro nome nel 2017. No, proprio a livello di line-up. Ah, perfetto. Quella era un'altra line-up. C'era una fotografia. C'era un altro cantante. Ok, perfetto. Sì, era una fotografia del 2016 se vogliamo. Bene. E in due anni quindi, venendo alla base, avete inciso 19 canzoni. Cioè sì. Siete un gruppo veramente molto prolisso. Prolifico e prolisso anche. Prolisso e prolifico. Esatto. Che cosa vi rende così prolifici e come lavorate in fase di scrittura? La fase di scrittura è abbastanza anomala perché, diciamo, di base i pezzi non vengono fatti in sala, ma sia io che Frank, il chitarrista, diciamo, registriamo delle basi sui relativi computer che poi vengono chiaramente fatte ascoltare agli altri. Specifica, non stiamo tutti a Roma. E infatti, appunto per questo, non essendo tutti quanti a Roma e non potendo provare con la line-up a completo sempre, abbiamo scogitato questo escamotage che comunque ci consente di fare, di essere abbastanza prolifici. Comunque le canzoni non sono, quelle basi portate in sala non sono chiaramente un diktat, ma vengono stravolte e riarrangiate da poi in saletta da tutti quanti, però la base di partenza è questa, e questo è quello che ci permette anche di fare tutte queste canzoni. E a mio avviso il vostro suono risente molto di sonorità dell'hardcore americano. Sì. E quali sono le band che sentite vicine al vostro sound? Allora, quello che abbiamo cercato di fare sin dall'inizio era, sì, un hardcore molto americano. Quello che volevo fare io e anche condiviso con gli altri, diciamo una cosa più alla Down to Nothing e Rotting Out un po', e altro, No Warning, sì. Diciamo che non abbiamo mai deciso di fare un gruppo alla. Volevamo fare un gruppo che non fosse eccessivamente moderno, però allo stesso tempo che non fosse roba troppo primi anni 80. Diciamo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, con un po' di suoni più moderni, mettiamola così. Domanda scomoda. Questa è mia. Cosa ne pensate dell'hardcore italiano? No, questa è tua, Frank. Aspetta, di adesso o della storia della cosa? Adesso. Beh, oddio, adesso in realtà è pieno di gruppi validissimi. La realtà è che... effetti, posso? Grazie. Ma prego. No. La realtà è che purtroppo l'hardcore, l'unica pecca che di cui risente in questo momento non è musicale, tutt'altro, ma è semplicemente di una questione di ricambio generazionale, ovvero... Io ho iniziato a suonare tantissimi anni fa, sono quello più grande all'interno del gruppo, ed ero effettivamente uno dei più giovani, perché ho cominciato a suonare nei gruppi hardcore che avevo 15 anni. Adesso a 20 anni di distanza succede che comunque incredibilmente sono il più vecchio all'interno di questo gruppo, ma non sono uno dei più vecchi all'interno di quella che è una scena musicale romana, e che comunque purtroppo mi sembra di vedere un po' in tutta Italia, nel senso che se prima avevi un pubblico che andava dai 15 ai 40, anche 50 anni, parlo di Roma, parlo, adesso c'è un pubblico che va dai 30 ai 40, anche 50 anni, rare volte chi era cinquantenne prima, vogliono 55, eccetera, però in realtà l'unica cosa di cui risente l'hardcore in Italia è il ricambio generazionale, che non c'è stato, ma vale per il punk, vale per lui. Purtroppo viviamo una realtà in cui i gruppi, sono anche quelli nuovi, sono composti da persone che suonavano già tanti anni fa. Gruppi giovani, è successo che non ci sono i giovani. Quelli che ci sono hanno preso delle vie che sono o troppo glitterate, troppo musicali, quindi vadano molto più all'aspetto e meno all'essenza, oppure purtroppo, è brutta dirla perché sembra un po' tirarsela, però in realtà è vero, gente che bada moltissimo al messaggio e molto poco all'aspetto musicale, il che crea quella classica situazione per cui ok, mi stai dicendo una cosa da importante, però purtroppo poi il concerto in sé non è una reale attrattiva. sul resto, per il resto comunque la media musicale e umana all'interno del panorama punk italiano, perché hardcore è un po' riduttivo, sì, cioè nel senso, però sì, che punk italiano è bellissimo perché è mega variegata, cioè, hai dei messaggi politici di una vastità totale, nel senso gente che comunque sta sulla stessa barca nonostante non ha la stessa, appieno la stessa idea, cioè fai capo a un antifascismo, un antisessismo, a tutta una serie di cose mega importanti che sono poi il cardine su cui si muove tutto quanto, su posizioni politiche più o meno vagamente diverse, però che comunque convergono tutti quanti su una stessa più o meno finalità, no? Sì. E musicalmente, grazie al cielo, è ancora altissimo il livello. Si spera che si confida in qualcuno dei 20 anni meno di noi che tiri fuori qualcosa di ancora più bello? Speriamo. Cioè, e considerando sì, che io ho 35 anni, 20 anni fa era figo, 20 anni prima ancora era ancora più figo, e speriamo che tra 20 anni ancora sia ancora più figo. Figo. Nessuno, sì, cioè, sì, nel senso, nessuno si offende di essere fuori in gruppo giovane più perfetto, bello. Anzi, sì, sono tutti sì, più contenti. Quindi i Red Coff hanno fatto un album nel 2016, hanno fatto un album nel 2017, e cosa ci aspettiamo nell'anno prossimo? Stiamo facendo roba nuova, quindi... arriverà pure nel 2018. Sempre intorno quando cadono le foglie. Forse pure prima, speriamo. Finché ci sopportate, noi andiamo avanti. Manco supportate, supportate. E poi facciamo una cosa che ormai è diventato un must per questo programma. Siete... Aspetta. Se ti piace fare una gag band in questa situazione, poi dimmelo tu. Uno prova, vai, vai, vai. Oh, vi lascio il cellulare, vado sopra. Vedete il video, il video. E lasciate un messaggio alla scena. La signora scena. Ragazzi, suonate, mannaggia la miseria, suonate sempre, provate tantissimo in saletta, fatevi il culo e prima o poi qualcosa viene fuori, cioè nel senso... La musica è importante, il messaggio è ancora più importante, fate coincidere le due cose, impegnatevi, fate come noi che spendevo una barca di soldi in sala prove, divertitevi, ricordatevi che dovete far divertire la gente e soprattutto ricordatevi sempre che non si è rockstar, non si diventerà non mai rockstar, sul serio, non vi prendete mai troppo sul serio e soprattutto fate in modo che nessuno vi prenda mai veramente troppo sul serio, è importante quello che dite. E supportate pure gli altri, e sempre avendo presente che non è una competizione, ma comunque è una cosa con la quale ci si diverte e non ci si fanno mai soldi. Grazie ragazzi, gentilissimi. Grazie a voi. Grazie a voi. Bella. Ciao mamma. Ecco, questa era l'intervista ai simpaticissimi Red Coff che abbiamo potuto apprezzare venerdì sera. Bene, come abbiamo già sentito nell'intervista, i Red Coff sono una band veramente molto prolifica, nasce nel 2016 e hanno già inciso 2 album. E tutti i componenti dei Red Coff provengono da numerose formazioni e dalle parti più disparate del centro-sud Italia. Sono romani, campani, ci sono un componente abruzzese e anche uno è molisano, quindi proprio il Molise quindi esiste e resiste. Hanno inciso, quindi l'anno scorso abbiamo detto, in 2016, e vi faremo quindi ascoltare la terza traccia di quest'album che si intitola Get Free or Die. Questi sono i Red Coff con Get Free or Die su... Ah, mi dimenticavo, mi è appena arrivato un messaggio. Adesso faremo vedere anche un lato cuccioloso del punk. Mi scrivono in forma anonima, devo lanciare un messaggio e cito in forma anonima, ci tiene a precisare la persona che mi ha mandato il messaggio, e devo dire: Bianca, sei stupenda. Ok. Messaggio totalmente anonimo. Ripeto, Bianca sei stupenda. Adesso sentiremo Get Free or Die dei Red Coff su Radio Wombat 1-3 Boots 1-2. We'll be right back. Questa era Get Free or Die dei Rick Hoff, tratta dal primo album in 2016, che a mio avviso è veramente un bell'album molto roccioso. E la prossima traccia che vi faremo ascoltare è tratta invece dall'ultimo lavoro rilasciato per la CBC Records il primo dicembre, sempre da Rick Hoff, che, come avete potuto sentire nell'intervista, si intitola Feeding the Fake. A me, ascoltando i Rick Hoff, vengono molto alla mente sonorità di band dell'hardcore d'oltreoceano degli anni 80-90, primi tra tutti per esempio i Suicidal Tendencies o i Cro-Mags, grazie all'utilizzo che i Rick Hoff fanno dei breakdown e, come avete potuto sentire, di Al Sole al Fulmicotone. Non ho potuto ascoltare tutt'oggi il loro ultimo album, ma ho avuto la felicità di vederli live questo venerdì, e vi garantisco che sono veramente molto rocciosi, oltre ad avere comunque una bella e importante presenza scenica. Nell'ultimo disco ho preso come esempio la traccia che si chiama Closed Mind, Open Mouth, dove effettivamente potete notare l'appiglio molto hardcore USA. Questo è Radio Wombat, i Rick Hoff con Closed Mind, Open Mouth, One Tree, Boots, One Shoe. Avete potuto notare la potenza di suono che ha questo gruppo, questa band romana, veramente una interessantissima band. Riallacciandomi al discorso fatto dai Rick Hoff, dove si dice ragazzi suonate, presenterò adesso una traccia di una band di giovanissimi fiorentini e più specificamente del Nito, che hanno venerdì presentato il loro EP all'Emerson, che si intitola Space Impact. È una band di persone simpaticissime e veramente con un suono molto più datato rispetto alla loro età anagrafica, una bella presenza scenica, e suonano quindi questo bel melodic surf punk old school. Io anche in questo caso non ho avuto modo di ascoltare il loro ultimo lavoro, ma penso che colmerò prestissimo questa mancanza. Per adesso godetevi insieme a me la traccia che gentilmente mi hanno mandato i miei nipotini, tra virgolette, li sto adottando, e si chiama Nova Speranza, che è una traccia presa appunto da questo EP che si chiama Space Impact. Se potete, ragazzi, acquistate questo EP e supportate questa giovanissima band che, a mio avviso, farà molta strada nel panorama. Questa è i Plankton con Nova Speranza su Radio Wombat. 1-3 Boots 1-2. Questi erano i Plankton, grandissimi ragazzi, continuate a spaccare ancora il culo in giro per l'Italia e continuate ancora a scrivere canzoni belle come queste. Come avevo anticipato all'inizio di questo programma, abbiamo io e il mio compare Gramenco, più io che il mio compare Gramenco per la verità, perché a me diverte tantissimo fare le interviste. Abbiamo fatto questa intervista anche al cantante dei Mad, una band teramana. Questa intervista è stata fatta alla fine del concerto. Infatti potete notare un po' il tasso alcolemico, sia mio sia dell'intervistato. E lascio la parola quindi ai Mad su Radio Wombat 1-3 Boots 1-2. Presentatevi ai nostri ascoltatori e spiegateci cosa vi ha spinto a formare una band così violenta nel cuore della Val Vibrato. Niente, praticamente eravamo dei giovani che volevano fare una band e tra mille bicchieri e cannoni facevamo una band inizialmente di stampo crossover, perché iniziamo praticamente all'inizio degli anni 2000, dove il crossover comunque andava in quegli anni. Vabbè, insomma, roba tipo Giuseppe Machine, cose, con un occhio di riguardo all'altro. Quindi, diciamo, cioè il motivo principale è la noia che attanagliava la nostra provincia disperata, che è quella di Teramo, in Abruzzo. Questo è il motivo per cui sono nati i Mad. Poi violento, non violento, per noi era un genere di protesta, per quello che vivevamo all'epoca, perché comunque parliamo di 14 anni fa, nella provincia di Teramo. Avete all'attivo un EP e 3 album, potreste presentarceli e svelarci come lavorate in fase di scrittura? Ok, L'EP di cui parli fosse Slow Degradation, che è del 2009. E... esatto. Bravo. E... diciamo che quell'EP là, cioè ti devo descrivere tutti e tre i dischi? No. Interesserebbe il primo EP e gli ultimi due, cioè più che altro sarei curioso di capire come scrivete voi i pezzi. Ok, la voce, ah, ti dico subito che la voce la mettiamo alla fine, cioè nasce da un'idea di chitarra, un riff, su cui poi ci lavoriamo chitarra e batteria e basso. Ultimiamo il pezzo e poi ci metto linee vocali sopra. E diciamo che comunque di solito adatto la linea vocale alla musica che è già stata scritta precedentemente. Penso che sia una cosa che nel rock fanno la maggior parte delle band. Sì, esatto. Cioè, il vostro terzo lavoro, sì, uscito questo autunno, se non sbaglio, due settimane fa, The Sound of Province, è un concept album. Sì. E potresti dirci quali sono il filo conduttore di quest'album, essendo un concept? Allora, il filo conduttore è il disagio che c'è nella nostra provincia, che noi abbiamo chiamato il suono della provincia, che è legato ad avvenimenti principalmente successi nell'ultimo anno e mezzo, che sono legati a terremoti, a cose che comunque sono uscite in TV anche, e fino ad arrivare a robe che non sono uscite in TV. Cioè, tipo, c'è un paese dove sono cresciuto io che si chiama Ponzano, che è stato completamente distrutto da una frana che ha portato via parte del paese. È una roba tipo quella che successe in Liguria anni fa, che si chiama dissesto idrogeologico, che è la copertina del disco, cioè la copertina dell'ultimo disco, è una foto che ho fatto io col cellulare in quella di zona un'agenziana lì. Che... l'agenziana c'è stata ovviamente montata sopra, che simboleggia la rinascita dell'Abruzzo e della provincia. Questo è il filone conduttore. Poi ci stanno anche altre tematiche legate a cosa è successo a me. C'è un pezzo dedicato a un'amica nostra che è scomparsa l'anno scorso, e c'è una cover, insomma. Quindi effettivamente, come dice il titolo, sono legati alla provincia. Sono legati assolutamente alla provincia, c'è anche una puntina di di polemica, diciamo, perché dove stiamo noi non c'è un cazzo. Cioè, anche a livello di locali, di posti personale, di posti occupati come questo, che è l'Emerson, che è gigante, che esiste da una vita, cioè non c'è un cazzo, quindi devi aggrapparti con le unghie e con i denti a quello che trovi. È complicato, però noi lo facciamo da diversi anni e andiamo avanti. Allora, tutti i vostri album, LP anche, sono stati prodotti in DIY. Uh-huh. Cosa vi ha spinto ad utilizzare questa, tra virgolette, politica? E cosa vi piace di questa filosofia poi tipicamente punk? È una politica, è una filosofia che abbiamo adottato fin dall'inizio. È tipicamente punk, ma non lo so, io nella vita di tutti i giorni vedo un sacco di do it yourself, cioè per come la vivo io comunque. Giustamente, se vuoi fare le sonorità che vuoi e che c'hai in testa, e forse meglio gestirtela da solo che appoggiarti forse una casa di discografica sì, più grande. Sì, ma poi comunque vedo che in Italia non ti danno quel supporto che ci dovrebbe essere, insomma. Io perlomeno, per come la vedo io, sono riuscito a fare delle cose che delle etichette in Italia, cioè pagandole, hanno fatto anche meno di quello che facevo io. Quindi, cioè, siamo stati anche con un'etichetta più, cioè diciamo una label e così, che comunque non ci capiva un cazzo di queste cose qua e ha detto ma perché queste cose io le devo affidare a un altro quando me le posso fare da solo? Sì, mi faccio il culo ma me le faccio da solo, me le gestisco io e... Cioè, essendo partito da un paesino di nemmeno 1000 abitanti, se sono arrivato a suonare in posti come Berlino, Germania in generale, significa che comunque, cioè, se una cosa praticamente tu ci credi, la riesci a fare. Perfetto. Il vostro sound a me risulta essere, correggimi, un crossover, almeno come la vedo io, di violento hardcore con sporadiche sonorità metal. Ok. Quali sarebbero le band che vi hanno maggiormente ispirato e a cui vi rifate direttamente o indirettamente? Giusto per una curiosità personale. Ce ne stanno tante di band. Ti potrei fare una lista lunga, perché comunque siamo formati da persone che... Cioè, chi è venuto dal punk hardcore, chi è venuto dal metal, chi è venuto dal New York hardcore, chi è venuto dal grunge. Se ti devo fare un elenco di band, ci potrebbero stare gli Hatebreed, ci potrebbero stare gli Slayer, ci potrebbero stare i Napalm Death, ci potrebbero stare i Terror, ci potrebbe stare Lux, che è un rapper storico della nostra zona, sì. Gli Obito, ci potrebbero stare un sacco di robe, comunque tutte legate agli anni 90. Che sono gli anni, sì, in cui noi siamo cresciuti musicalmente e anche, cioè, per l'età che ci abbiamo. E avete suonato con gente del calibro di Bloody Riot, Clipper Bastard, Raw Power, eccetera. Sì. Quali live secondo te vi sono rimasti più impressi ed avete per caso qualche curiosità su questi mostri sacri dell'hardcore mondiale? Tipo, avete fatto provare la genzana a qualcuno di questi? Sì. Vabbè, c'è Mauro De Power che dice che la genzana fa cagare. Ok. Oh, poi... Questo è una grande aneddoto. Cosa la beve. Ah, ok. concerti in particolare... Guarda, forse De Power quando l'abbiamo fatti al festival, alla Rivercore Fest 2. Un festival che facevamo noi all'Aquila e poi da lì cioè l'aneddoto è che noi siamo diventati stretti amici di Evo Power, cioè l'abbiamo trovati proprio delle persone fantastiche, cioè parliamo di è stato specie di padri, assolutamente sì. Cioè, tra le influenze dei Mad ti posso anche menzionare Evo Power. Sì, perfetto. E avete suonato tantissimo sia il bello della diretta non in diretta avete suonato tantissimo sia in Italia che all'estero. Okay. Avete notato qualche differenza tra l'audience italiana e l'audience straniera per quanto riguarda l'hardcore? Sì, perché abbiamo suonato in posti che praticamente vengono considerati terzo mondo, cioè tipo la Bosnia, così, che post guerra, ex Jugoslavia, eccetera. Noi siamo stati là e cioè, ai concerti c'erano sempre 200 persone, minimo 100, capito? Mercoledì, così. Questo sto parlando proprio di una zona, cioè ex Jugoslavia. In Germania comunque anche, in Germania la gente si diverte. Cioè vedo comunque più partecipazione ai concerti anche nell'infrasettimanale rispetto all'Italia, anche in posti che tu dici cioè che non sanno manco che cazzo è l'hardcore. E questo arriva arriva la domanda proprio bruciapelo. Vabbè. Che cosa ne pensa dell'hardcore italiano? L'hardcore italiano è sottovalutato, non se lo incula nessuno, cioè abbiamo delle band della Madonna che secondo me attualmente passano la paga anche a band americane o inglesi. Forse può, a tuo avviso, può essere un deterrente il fatto che la maggior parte delle band hardcore italiane comunque cantano in italiano in sé per sé, o no? ma questo negli anni 80. Ma negli anni 80 l'alcol italiano era rispettato in America. Sì. Adesso, cioè perlomeno per la scena che vivo io adesso, non ci stanno tantissime band in canone italiano. Sì, può essere un deterrente comunque. Poi gli Impact negli anni 80 andavano, cioè sì. Cantavano in italiano, non sempre sì. Cantavano in italiano. O i Bloody Riot, cioè la scena italiana degli anni 80, ragazzi, cioè io sì. Non credo che la scena di quegli anni americana fosse superiore a quella italiana. Anzi, cioè, se i Raw Power arrivano a fare... Se no hanno detto come rizzano sì, Raw Power ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo. Sì, sì, infatti. Niente, domanda di Rito, avete progetti per il futuro? Progetti di promuovere l'album, è uscito 2 settimane fa, abbiamo un bel po' di date. Tipo? Settimana prossima stiamo in Sicilia e Puglia. Poi abbiamo un po' di Nord Italia, Bergamo, Milano, dovremmo tornare anche a Firenze tra l'altro. E poi a marzo tour europeo, est europeo, Ungheria, Serbia, Bosnia, Romania, Bulgaria. No, vabbè, non è un ficco tour, però vabbè, sì. Se capita. Capita sicuro. Regolare. Lasciate un messaggio ai nostri ascoltatori. Sì, voglio, bella per tutti, grazie per l'intervista e continuate a venire ai concerti, cioè andateci ai concerti più che altro, non fate il supporto solo tramite social network che non serve a un cazzo. Grazie mille. Grazie a voi. E un'ultima domanda. Secondo voi la parola attitudine nella scena core italiana cosa sta a significare? Sta a significare che ti svegli la mattina, vai a lavorare e la sera vai a suonare. Cioè non è... Cioè la parola attitudine non deve essere una scusa per... Cioè faccio al core allora ci resta la parola attitudine. No, l'attitudine la devi dimostrare in qualche modo. Significa sbattimento, significa crederci veramente, cioè come facevano band cioè, su cui noi ci siamo ispirati praticamente. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie mille. Ecco, questa era l'intervista ai Mad, ringrazio ancora il cantante dei Mad, ringrazio tutti, anche i Rekoff. Intervista simpaticissima e dove si sono toccati veramente dei punti molto interessanti. Penso che oggi sforerò leggermente il termine e perché mi interessa farvi ascoltare bene le sonorità di questo gruppo che, come abbiamo visto, nasce nel 2004 in Abruzzo, nella Val Vibrata, che è nel Teramano. Hanno quindi all'attivo, come abbiamo detto, un EP e 2 album, Violence Against Violence del 2011, From the Bottom del 2014 e The Sound of Province è uscito questo 2 settimane fa. Registrati, come abbiamo detto, tutti in DIY. Il suono dei Mad è un crossover, a mio avviso, che oscilla da sonorità metal anni 80-90, in stile per capirci Pantera e Sepoltura, ad un metalcore di tipo Hatebreed unito alla violenza dell'hardcore moderno, caro a gruppi tipo i Sick of It All o i Madball. Il primo brano che vi faremo ascoltare di questo gruppo è preso dal loro EP e si intitola Shit of the World, su Radio Wombat, Shit of the World I Mad, 1-3 Boots, 1-2. There's no sun. Bene, questa era Shit of the World. Per quanto riguarda i Mad, farò ascoltare una traccia presa da ogni loro lavoro. Quindi la seconda traccia è presa quindi da Violence Against Violence del 2011, che a mio avviso è veramente un gran bel lavoro. Ascolto molto spesso questo album, dove sono presenti dei suoni veramente tiratissimi, con delle chitarre pesanti unite a una voce rabbiosa, una batteria veramente molto martellante. Poi i testi inoltre di quest'album sono i classici testi figli dell'hardcore, quindi belli rabbiosi e violenti, che si rifanno molto ai valori quindi dell'hardcore stesso. La traccia che ho scelto è la sesta di quest'album, veramente una cantonata in pieno viso, e si chiama Hostile. Su Radio Wombat, 1-3 Boots, 1-2. Questa era Hostile dei Mad. Io ci sento molto all'interno di questo brano influssi di persone del calibro dei Madball. E infatti all'interno poi di quest'album Violence Against Violence, ricordiamo, è presente anche una cover dei Terror, proprio per precisare quali sono le chiare influenze di questa band. Volevo ricordare a voi ascoltatori che tutte le band che state ascoltando oggi hanno suonato al Next Emerson venerdì in un concerto organizzato dal Smash Sound Collective, questo collettivo nuovo creato da un paio di mesi, è formato da giovanissimi e un meno giovanissimo che fanno dell'underground e della promozione, quindi della musica underground, il proprio credo. Quindi andiamo avanti e adesso mettiamo una traccia presente dal secondo album From the Bottom della band Termana, che ci tengo a precisare è una band formata da ex membri dei Violent Minorities. E la sfida che hanno preso i MAD era quello di, a mio avviso, di fare un album dove i suoni siano ancora più cattivi e pesanti rispetto a quelli ascoltati fino adesso, e a mio avviso ci sono riusciti. Ascoltando questo album From the Bottom vedo anche una certa volontà della band di staccarsi da chiari stilemmi hardcore per creare un prodotto personalissimo. Può essere una mia impressione, ma in quest'album odo di tanto in tanto l'influsso di altre band rispetto agli altri album, di band violentissime come per esempio quelle dei Napalm Death. E adesso manderemo un altro brano, si chiama La Rae Crew, che è un altro veramente pugno in faccia, e potete se vi va notare quindi la crescita della potenza di questo gruppo e lo spettro forse di Napalm Death all'interno di questa traccia. Questi sono i MAD, la canzone si chiama La Rae Crew, su Radio Wombat 1-3 Boots 1-2. With you, no, I am you. Questa era la Ray Crew dei Mad. E come abbiamo potuto ascoltare anche nell'intervista, i Mad hanno all'attivo oltre 300 concerti in Italia e all'estero, con band del calibro di Bloody Riot, Clip or Bastards, Raw Power, Impact, Entombed e The Scourge. E l'ultimo loro album, come abbiamo già potuto ascoltare, si intitola The Sound of the Province. E io non ho il supporto ottico di quest'album, ma l'ho potuto ascoltare in streaming. All'interno di quest'album potete trovare anche una collaborazione importante. C'è infatti nel pezzo Full Speed Ahead una collaborazione con il cantante dei Raw Power, Mauro Codelupi. All'interno dell'album è presente anche una cover dell'Impact che si intitola Solo Odio. Di quest'album mi farei ascoltare il singolo estratto, che si intitola Head Down. Questi quindi sono i Mad con Head Down su Radio Wombat 1-3 Boots 1-2. Gli altri gruppi, ma ho messo semplicemente tre tracce dei Mad e due dei Rick Off, semplicemente per dare uno spaccato della discografia di questi gruppi. Non è perché io abbia un parteggio per un gruppo o per un altro. Sono due gruppi, tutti gruppi veramente bellissimi. Il prossimo gruppo che vi presenteremo vengono da Modena, sono gli Sdegno, l'abbiamo già potuti ascoltare nel, se non sbaglio, la quarta puntata, la puntata dove abbiamo toccato le band della Distro e della label DIY. Last Decay, del nostro carissimo amico Miki, che ringrazio veramente col cuore, persona stupenda. Gli Sdegno nascono all'inizio del 2017 da vecchie facce del panorama hardcore del modenese. Hanno messo insieme 10 pezzi, di cui 3 sono stati registrati e vedranno la luce prossimamente. Qui su One Tributes One Show possiamo ascoltare per la seconda volta un'altra perla. La traccia in questione si chiama Ogni Giorno e ci è stata concessa da Miki gentilmente, che ringrazia ancora calorosamente oggi pomeriggio tramite mail di farvi ascoltare questo brano. Non l'ho ascoltato neanche io, perché mi è arrivato mentre stavo in bus per arrivare alla radio. Quindi lo ascolterò per la prima volta anche io insieme a voi. Miki, ti ringrazio veramente, sei una persona stupenda. Grazie ancora anche per avermi regalato il CD dei Fratelli Grimm, che a me piacciono particolarmente. E no, non ti preoccupare, non vi offenderò e non vi posso offendere, anche perché siete una band fortissima e siete delle persone stupende. E in prima mondiale, quindi, Ogni Giorno degli Sdegno su Radio Wombat, One Tree Boots, One Shoe. grandissimi, applausi, grande sdegno, grande, veramente bel pezzo e non vedo l'ora di ascoltare l'opera finita. Ringrazio ancora Miki, sei una persona stupenda, grazie mille per questa traccia. Bene, e quindi la puntata di oggi è stata incentrata sul concerto che la Smash Sound Collective ha organizzato al Next Emerson venerdì scorso. E ricordiamo le band che hanno suonato, ringrazio sia per la Smash Sound, sia per le interviste che ci hanno concesso e le loro tracce. Sono i Rekoff, i Mad, i Plankton, gli Sdegno, e hanno suonato anche una band che si chiamano Ignoranti. Sono una band di Pisa che è stata fondata quest'estate, quindi giovanissima ma non composta da persone giovanissime. Sono infatti, questa band è composta da ex componenti dell'Equin Sterk e dei Charles Bronze e fanno un misto di hardcore trash con testi basati sui B-movies italiani degli anni 70 e 80. Un gruppo veramente interessante. E visto che comunque è stato formato da poco tempo, non abbiamo avuto modo di avere una loro traccia. Possiamo garantire che live hanno veramente un tiro pazzesco e sono veramente simpaticissimi sia sul palco che sotto il palco, un'attitudine veramente unica e formata da persone veramente simpaticissime che saluto calorosamente e che mi hanno allietato per un paio di ore al bar, accompagnando il tutto con risate e fiumi di alcol. Per farvi un esempio, pezzi degli Ignoranti sono una canzone che mi viene in mente, si chiama Fillini e il pesce ratto, presa dal film Fantozzi, o anche Occhio malocchio prezzemme finocchio. Bene, io ringrazio di nuovo voi ragazzi, la puntata è arrivata a termine, ringrazio di nuovo la Smash Sound, ringrazio tutti i gruppi, saluto il mio caro compare Gramenco, perso in non si sa bene che parte del mondo, rileggo il messaggio che mi ha mandato una persona anonima e con scritto Bianca sei stupenda, ringrazio anche Fofo di avermi mandato il messaggio. Grazie Fofo, goditi il tuo tè, perché veramente ne avrei bisogno anche io, perché fa un freddo boia. Ragazzi, ci sentiremo domenica prossima, questa è Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2, ciao a you.